Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Era nato nel 1920 e dopo l'8 settembre fu fatto prigioniero dai tedeschi. Fu portato in Germania, a Bydgoszcz in Polonia, prima in un campo di concentramento in Germania, poi fu trasferito a Bydgoszcz in Polonia e iniziò per lui, diciamo, periodo, questi 20 mesi tragici, di cui lui con me non ha mai voluto parlare. Poi sono stato io, dopo che è morto, che ho ricostruito un po', diciamo, le tappe della sua vita. A un certo punto, quando nell'aprile, poi perfezionato con altri accordi, fu data la possibilità ai tedeschi di far lavorare i militari italiani, mio padre fu mandato in un campo agricolo, insomma, a fare il contadino. Per il gelo gli andò, si è preso delle infezioni, andò una gamba in cancrena, fu ricoverato in un ospedale. Nel 1973, quando fu fatta la legge per i combattenti e fu data la possibilità di avere, diciamo... Devo essere sincero, non avrei mai sospettato di essere messo nelle condizioni di fare una terza puntata sugli internati italiani in Germania. Trattammo per la prima volta questo argomento nel corso di una ricorrenza che si celebrava a Roma, facemmo una puntata, ma dopo pochi giorni fummo nella necessità, fummo costretti di fronte alla mole di messaggi che ci arrivavano di dare voce ad altri ascoltatori. Beh, oggi facciamo una terza puntata. Facciamo una terza puntata perché si sono aperti altri scenari, sono aperte altri fili della memoria, ci sono altri ascoltatori che vogliono raccontare le loro storie. Cominciamo quindi questa mattina a dare modo ai nostri ascoltatori di aggiungere quel pezzo di loro storia familiare vissuta sulla pelle, sui ricordi tramandati di padre in figlio, visto che siamo alla prima generazione dopo gli internati, dando modo così alla storia ufficiale di avere comunque un documento sul quale poi altri, non è questo il nostro mestiere, potranno intervenire. Pietro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, dottor. Qual è la storia di suo padre? Ma la storia di mio padre è raccontata, almeno quella parte della storia della sua vita, quella che riguarda la guerra, è abbastanza sintetizzata in un diario che lui ha lasciato. Per la verità non è in uno stato di conservazione ottimo. Comunque io sono riuscito a mettere in chiaro diverse pagine e ne si può leggere una storia così avventurosa, drammatica. Ognuno usi un po' gli aggettivi che vuole. Quindi per tutto, diciamo, il periodo della sua prigionia, suo padre, quanto è durata? Ma lui è durata in pratica dal 43, dopo l'8 settembre 43, sì. Lui era in Croazia, è arrivata la notizia dell'armistizio, loro si sono arresi ai tedeschi dopo essere stati bombardati dai tedeschi, e quindi lui dal 43 fino al 45, quando è tornato a casa, è rimasto poi prigioniero dei tedeschi. Ecco, in tutto questo periodo è riuscito a tenere, penso segretamente, non credo che fosse consentito, un diario e scrivere giorno per giorno quella che era la sua storia. Certo, certo, in modo stranissimo anche a me. Comunque, se lei vede, ci sono delle pagine che cambiano ogni giorno, la scrittura che cambia ogni giorno, io penso con una matita, perché è, ripeto, in uno stato di conservazione non perfetto. Ma quello che risulta a me subito, avendolo tradotto, è il disagio, l'incertezza, lo sconcerto. Dopo l'8 settembre, lui a un certo punto dice: noi non abbiamo più patria. Ed è una cosa che fa veramente venire la pelle d'oca, insomma. Ma resta in ascolto, Pietro, lo faccio interagire con la docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma che ci ha seguito in un'altra nostra puntata, che è una storica che questo periodo invece l'ha studiato bene e anzi è fortemente motivata ad aggiungere quello che la storia ancora non ha possibilità di mettere assieme rispetto a quelle sono le storiografie ufficiali. Professoressa Anna Maria Isastia, buongiorno. Buongiorno. Come vede, noi l'abbiamo sentita qualche tempo fa su un argomento che era legato a una ricorrenza, ma stiamo avendo continue sollecitazioni a dare voce a persone che non hanno avuto mai occasione di raccontare le loro storie. Rispetto al racconto di Pietro che è qui in ascolto, ci sono dei punti in comune con altre storie che ha visto o ha sentito o su quella che è la lettura ufficiale di quel periodo e di quella generazione? Posso dirle che ogni volta che mi capita in una sede pubblica di parlare di prigionieri di guerra e di IMI in particolare, almeno un terzo dell'uditorio interagisce con me. È una cosa che fa impressione, perché uno non se lo aspetta, come non se lo aspettava lei. Quindi è un argomento di grandissima attualità, perché i genitori non hanno parlato e i figli stanno scoprendo adesso o hanno scoperto da poco questa tragica realtà e cercano di capire, di scavare, di ricostruire una parte della vita dei loro genitori. Secondo me, professoressa, per il poco che posso io avere competenza in questo, il momento per raccogliere le testimonianze, ordinarle, archiviarle adesso, perché la generazione successiva non so quanto sarà interessata a mettere assieme il diario cartaceo di un bisnonno che è stato in prigionia in Germania, illeggibile, via dicendo. Una volta interrotto il contatto fisico, carnale, con le persone che hanno avuto questa esperienza, sarà ancora più difficile che un nativo digitale vada a ritrovare questi documenti. Eppure i nonni hanno parlato con i nipoti, non con i figli. I prigionieri di guerra hanno raccontato ai nipoti quello che avevano taciuto, alle mogli e ai figli. È affascinante questa realtà. Beh, il senso della disfatta o del tradimento per qualcuno o dell'impossibilità di capire quello che stava accadendo probabilmente è stato uno dei motivi per cui c'è stata una generazione che non ha voluto raccontare ai propri figli. Ho un padre che ha fatto la guerra e quindi lo so di persona, non ho mai sentito a mio padre se non pochi monosillabi di quello che accadde di lui e della sua generazione. Ma per un soldato è umiliante finire in prigionia, ma credo che sia due volte umiliante non essere neanche riconosciuto come prigioniero di guerra, perché questo capita agli IMI, sono prigionieri di guerra a cui Hitler nega lo status di prigioniero di guerra. Internato militare italiano è una parola inventata, non esiste. Allora, l'IMI, l'internato militare italiano in Germania, è un militare che non gode dei diritti che tutte le convenzioni internazionali garantiscono al militare prigioniero. Era un escamotage per farli lavorare come animali nei luoghi più... per costringere ai lavori forzati senza tutela. La Croce Rossa internazionale non se ne poteva occupare, nessuno si poteva occupare di loro. Vogliamo ricordare qualche numero, professoressa, per chi non avesse ascoltato le altre puntate? Guardi, gli internati militari italiani sono stati non meno di 650.000, forse 700.000, presi prigionieri dovunque in Europa, perfino in Italia, perfino a casa proprio, nelle accademie militari, nelle caserme. E poi i militari italiani erano nel sud della Francia, erano su tutto il litorale adriatico, in quella che poi è diventata la Jugoslavia, erano in Grecia, erano nelle isole del Peloponneso. Il padre di Pietro infatti stava in Croazia. Era in Croazia, ma li troviamo a Kos, li troviamo a Rodi, li troviamo a Cefalonia, dappertutto, furono presi prigionieri dappertutto, col tradimento, perché questo è importante. Cioè non sono stati sconfitti. 8 settembre, armistizio, i comandanti tedeschi comunicano ai comandanti italiani che la guerra per loro è finita, consegnino pure le armi e se ne tornino tranquillamente a casa. Fatta la consegna delle armi, ecco il tradimento, vengono presi prigionieri, caricati sui carri bestiame e trasferiti in Germania, nei campi di concentramento. Pietro, rispetto a quello che ci ha precisato la professoressa Anna Maria Isastia, può aggiungere qualche ricordo ulteriore su quello che ha letto o ha interpretato nel diario di suo padre? Sì, ma guardi, è impressionante come la dottoressa abbia colto nel segno questa sorta di rispetto umano che ha avuto anche mio padre nei nostri confronti, nel raccontarci, addirittura nel dirmi che aveva il diario. L'abbiamo saputo per caso, ma non ce l'ha mai mostrato, e probabilmente perché mio padre non è che fosse uno che dimostrava chiaramente gli affetti eccetera, ma se lei poi vede in quel diario il continuo pensiero a casa, e probabilmente questo faceva un po' vergognare mio padre di queste sue debolezze, lui è stato preso a Spalato e sono stati portati un po' dappertutto, si lamenta della fame, quello che fa impressione è che non contano i morti, ma contano i feriti. Lui fa un resoconto dei feriti, come se i morti fossero delle pratiche concluse e i feriti invece fossero della gente che bisognava ancora sfamare, curare, eccetera. Io, se la dottoressa vuole, posso mettere a disposizione questo mio diario di chiunque, non di chiunque, ma della dottoressa senz'altro. Ecco, dottoressa, esiste la maniera, visto che queste trasmissioni poi noi le rimanderemo anche durante l'estate, di dare un indirizzo, un nome, un punto di riferimento, perché di materiali ce ne danno veramente tanti, ce ne stanno almeno offrendo, e penso che lei ne fa un uso senz'altro migliore rispetto a quello che potrebbe farne qualunque altra persona. L'indirizzo glielo do con molto piacere, le segnalo la NRP, che è l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, che ha sede a Roma in via Labicana 15A. Noi ridaremo poi questo indirizzo, lo metteremo nel sito. E le dico di più, stiamo facendo un grosso lavoro con l'associazione insieme al Ministero degli Esteri italiano e tedesco per costituire un museo della memoria. E mi sembra che il materiale ce n'è in abbondanza. Le testimonianze arrivano veramente al momento giusto. Allora, nel sito internet di Melog, sì, di Radio 24, ne metteremo comunque riferimenti per quanti vorranno riascoltare queste puntate e vorranno avere un punto di riferimento per poter mettere a disposizione i materiali familiari che hanno, perché la storia riempa questo momento di vuoto. Mio papà fu fatto prigioniero dai tedeschi in Albania dopo l'8 settembre, e lui e i suoi commilitoni furono prima trasportati in Serbia, un campo di lavoro in Serbia, e poi a causa del ritiro dei tedeschi, anche risalendo il Danubio, arrivarono fino in Cecoslovacchia, la Boemia. Lì erano in un campo di lavoro, facevano un aeroporto, sbancavano terra e un aeroporto militare per i tedeschi. Una volta arrivati in Cecoslovacchia, la particolarità del campo in Cecoslovacchia, in Boemia, vicino a Praga, vicino a Skralove, una piccola cittadina di Lipciani, la particolarità era che il campo era relativamente aperto, ci raccontava nostro papà a noi figli, noi siamo quattro fratelli. E quindi nacque una specie di relazione, anzi senza spese, una relazione anche di amicizia con la popolazione. Questo era un ascoltatore che ci aveva telefonato in una delle scorse puntate, e come vedete esiste una capillarità di racconto, anche se i padri sono stati reticenti, anche se probabilmente hanno fatto un salto generazionale, hanno informato più i nipoti che non i figli, i diretti testimoni di quella che molti loro consideravano una pausa, una parte della loro vita, di loro vita di militari, di cui non parlavano volentieri. Abbiamo al telefono Mario Avagliano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Mario Avagliano ha scritto insieme a Marco Palmieri Gli internati militari italiani, diari, lettere dei lager nazisti 43-45, editore Einaudi. Anche lei è una delle poche persone che si è presa felicemente l'incarico di riempire questo buco della storia. Trova delle corrispondenze rispetto a quello che sta sentendo adesso alla radio e le lettere che lei ha raccolto nel suo libro? Sì, assolutamente sì. E questo profluvio di materiali che negli ultimi anni sta venendo fuori da parte dei familiari, degli internati militari, dei pochi sopravvissuti che purtroppo per ragioni anagrafiche ci sono, è davvero testimonianza. Comincia a essere difficile trovare dei sopravvissuti. Noi abbiamo sentito uno, ma aveva oltre 90 e passa anni. Infatti. Però alcuni fortunatamente ancora ci sono. Però, dicevo, questo profluvio di materiali dimostra che davvero c'è un'attenzione molto forte. Vorrei ricordare che solo negli ultimi 2 o 3 anni finalmente lo Stato italiano si è ricordato degli internati militari e dei deportati politici, e sta concedendo proprio anche in queste ultime settimane le medaglie d'onore ai pochi sopravvissuti o ai loro familiari. Una dimenticanza che davvero purtroppo è una vergogna delle nostre città. Certo, la medaglia 70 anni dopo. Fermiamoci un istante, voglio far sentire qualche estratto dal suo libro, delle lettere, delle testimonianze appunto che voi avete raccolto. Münchenberg, Germania, 27 marzo 1945. tedeschi. Mi viene ancora a parlare bene dei tedeschi. Gli spacco la testa come un cocomero. Sono due giorni che lavoro a scavare trincee e ne ho già viste qui tante che solo con questi due giorni potrei riempire un volume. Ieri abbiamo fatto una decina di chilometri per andare al lavoro. Abbiamo faticato come bestie. I tedeschi no, perché chi aveva mal di schiena e chi male ai piedi. E abbiamo avuto in compenso che cosa? Un litro di zuppa acquosa divisa in mezzo litro a mezzogiorno e mezzo la sera e 200 grammi, dico 200, di pane con un pezzo di margarina alle 6 della mattina. La fame comincia a far sentire i suoi morsi atroci. Le membra cominciano a non reggere e a non obbedire più e gli occhi si fissano senza nulla vedere. Lo stesso fenomeno che avveniva ai bei tempi della fame, da prigioniero. Ieri nella zuppa si notavano delle patate. Oggi è arrivata alle 15 e consisteva in acqua e farina di segala, senza sale né condimento. Vorrei interrogare, porca miseria, i famosi capoccioni o chi per loro, se con simili razioni si può lavorare di pala per 9 ore al giorno. Fame, cari miei. Mario Avagliano, lei come ha raccolto queste lettere? Quali sono stati i canali attraverso i quali è riuscito a scrivere un libro su una materia che, e poi mi dirà qual è il suo parere, sulla quale sembra calata una sorta di velo tra l'imbarazzo, la rimozione e anche la censura, diciamo la verità? Beh, non solo dagli archivi pubblici come quelli degli istituti storici, della Fondazione della Memoria che c'è, della deportazione che c'è a Milano, ma anche e soprattutto vorrei dire attraverso i sopravvissuti, attraverso i familiari. C'è stata una sorta di passaparola per cui a me e all'altro autore Marco Palmieri sono giunti sono giunte lettere, diari, davvero un entusiasmo e una voglia di memoria da parte soprattutto delle donne, cioè soprattutto delle figlie o delle nipoti di questi internati militari. Questo è un fatto che va sottolineato, la voglia delle donne di perpetuare la memoria familiare, la memoria di una pagina che poi è una pagina di resistenza italiana, perché quello che sosteniamo io e Marco Palmieri, assieme a Giorgio Rosciai, che ha scritto la prefazione del libro, è che la pagina dell'internamento militare fu una pagina di resistenza, fu il primo grande referendum popolare a cui furono sottoposti gli italiani, centinaia di migliaia di italiani che dovettero scegliere tra restare nei campi di concentramento oppure aderire alla Repubblica Sociale. Ecco, come si spiega lei però anche in periodi in cui era ancora più vivo di quanto lo sia oggi il senso della resistenza, il senso dell'uscita dalla dittatura? Questo è stato un tema che è stato tenuto un po' sotto, no un po', tantissimo sotto la cenere, seppellito. C'era una sorta di diversa valutazione fra resistenza e resistenza? Assolutamente sì, purtroppo, e non solo per quanto riguarda l'internamento militare, ma anche per quanto riguarda la deportazione politica. Queste forme di resistenza, poiché non avevano implicato una lotta armata, furono considerate quasi una resistenza di serie B. In più c'era un altro fattore, che quello degli internati militari era appunto una resistenza di militari, e quindi l'esercito italiano, che aveva partecipato naturalmente alle guerre fasciste, aveva era guardato con sospetto, per non dire altro, dalla nascente Repubblica Italiana. Diciamo che si era creata un'iconografia del partigiano, della resistenza, che andava a cozzare con l'idea che potessero esserci degli italiani resistenti, ma anche con la divisa. Melog, la realtà condivisa. Riedlingen, Germania, 26 aprile 24 agosto 1944. In questo tempo la prigionia è stata di dura disciplina, avendo un caporale di guardia che aveva come unico modo di soddisfarsi quello di vederci sottoposti al suo comando e opprimerci il più possibile. D'altra parte, si deve riconoscere un alleggerimento della prigionia per la distanza della fabbrica dal posto dove si mangia e dorme, per cui dovevamo attraversare 3 volte al giorno il completo paese. Un altro motivo di piacere è quello di essere solo in 30. In questo caso si avvera il proverbio che dice: poca brigata, Vita beata. Questa è una lettera di un internato militare italiano in Germania, tratta dal libro Gli internati militari italiani, diari e lettere dai lager nazisti 43-45 di Marco Avagliano e Marco Palmieri, editore Einaudi. Mi ero interrotto con Mario Avagliano, che è giornalista, è storico e saggista, che ha scritto appunto assieme a Marco Palmieri il libro da cui abbiamo tratto queste letture. Vorrei mettere a fuoco meglio l'idea della rimozione. Per quanto tempo è durata la rimozione? Quali sono stati i termini della rimozione di questo episodio storico, che mi sembra che invece abbia una necessità quasi virulenta di essere raccontato dalle persone che sono stati diretti testimoni? Sì, è durato diciamo almeno fino agli anni Ottanta. Fino agli anni Ottanta la memoria degli internati militari è stata riservata soprattutto ai sopravvissuti, e fra questi va ricordato un internato che poi è diventato uno storico, Vittorio Emanuele Giuntella, che ha scritto dei libri molto importanti su questa materia. E poi sono arrivati i lavori di due tedeschi, il che dovrebbe farci riflettere su come la memoria del nostro paese è stata trattata, è stata indagata, cioè quella di Gerhard Schreiber e di Gabriele Ammermann, che hanno dedicato due importanti lavori dettagliati, approfonditi alla questione dell'internamento militare italiano. Ci fermiamo solo un secondo, mi scusa Vagliano, c'è l'ascoltatrice Lucia, che poi so che ha un suo impegno, che però ci teneva anche lei a raccontare qualcosa di casa sua. Lucia, buongiorno. Buongiorno. E niente, io sono figlia di un internato, mio padre mi ha avuto a 52 anni perché militare e carabiniere, quindi non potevano sposarsi. Purtroppo è morto 5 anni fa all'età di 98 anni. Lui fu arrestato a Roma l'8 settembre, esattamente come ha detto la signora che ho sentito prima, la professoressa. Sì, la professoressa nella caserma. Prima hanno arrivato il fonogramma, l'hanno fatti tutti schierare e poi praticamente arrestati e deportati tutti in Germania. Lui è stato a Monaco di Baviera e lavorava per una fabbrica bellica tedesca. Mio padre ha raccontato molto poco e ha raccontato un po' di più ai miei figli, anche se erano ancora piccoli. Quindi conferma anche lei questa storia, che parlano più volentieri con i nipoti che con i figli. Ma voi, sì, quando eravate piccolina, lei con suo padre, di questa cosa era un argomento che non si toccava in famiglia? No, si toccava, si poteva parlare, perché poi mio padre, essendo carabiniere, poi è diventato anche comandante di caserme, aerei, ha comandato il Senato, eccetera. Si parlava tranquillamente. L'unica cosa che lui non amava raccontare le cose brutte. Lui mi ha raccontato, io sono 20 anni che la sto cercando, invece, di una tedesca che ha salvato 15 italiani. E lui raccontava queste cose, l'aiuto che ha avuto anche dai serbi quando lui è stato in Serbia. Ma lei ha riferimenti di questa signora tedesca? Sì, sì, ho chiamato il consolato, ci sono andata, ma si chiama Anna Hoffmann e abita in via Frank-Marx-Strasse 2. Ma noi non siamo riusciti a rintracciare nessuno, quantomeno per dirgli grazie, perché poi mi ha avuto mio padre. Quindi suo padre l'ha lasciato riferimento, questa signora tedesca ha salvato 12 italiani. Abbiamo le foto, ha salvato 15 italiani, perché quando bombardarono gli alleati Monaco, la signora praticamente li portò tutti a casa e li nascose. Non ho pretesa che questo programma possa mettere assieme dati tali, perché però l'abbiamo detto alla radio, una radio nazionale, una radio che rimane in rete, quindi chi è interessato probabilmente poi avrà modo anche di ascoltare e semmai di aggiungere elementi. Poi quali sono le cose brutte, come l'ha saputa invece le cose brutte che riguardano suo padre? Le cose brutte lui le raccontava, ma diceva pochissimo. No, tipo che ovviamente andavano a raccogliere le bucce di patate, che si mangiavano le bucce di patate arrostite, che si scambiavano, lui non fumava, per cui scambiava le due sigarette al giorno per avere un pezzo di pane, che dovevano farsi, che è stato un giorno ammarcato visita, così diceva lui, perché non ce la faceva più a lavorare oramai. E i tedeschi l'hanno preso e l'hanno portato subito in infermeria, lui a quel punto si è pentito, perché ha detto adesso cosa gli dico, perché sapeva che agli altri facevano operazioni senza anestesia, senza nulla, e si è inventato che gli faceva male il dente. E gli hanno tolto tre denti, cioè il dente indicato più due accanto, senza anestesia. Mi racconta di l'ha pagato, l'ha pagato caro, marcare visita. Cioè ha pagato caro praticamente coi denti, ma c'era gente che marcava peggio dicendo aver mal di schiena, mal di pancia, cioè operazioni fatte così. Cioè li operavano senza anestesia, così, su un sintomo dichiarato. Beh, è una maniera per reprimere e punire l'astenersi dal lavoro, immagino. Sì, mi raccontava che venivano svegliati dai cani tedeschi, dai pastori tedeschi, che non dovevano immediatamente alzarsi, perché sennò questi li azzannavano. E lui, ecco, appunto, amava più raccontare la solidarietà fra prigionieri. E invece i nipoti cosa raccontava? I nipoti raccontava di quello che è rimasto ai miei figli, di non fare appunto più le guerre o tutto il resto, e di accettare la solidarietà umana. Cioè, ha puntato molto sull'aiuto e sull'onestà. La ringrazio, Lucia. Buona giornata. Va bene, prego, arrivederla. Mio papà era del 1922, fece la Russia, Nicolaevska, no, la battaglia di Nicolaevska. Tornato in Italia, fu rimandato in Germania a fare l'internato, cioè fu preso in Alto Adige e spedito in Germania. In Germania, in campo di concentramento, alla mattina li facevano uscire, andavano a riparare i binari bombardati, qualcuno rimaneva anche ammattato perché comunque era una situazione di pericolo, e ovviamente mangiare non ce n'era, per cui bisognava mangiare quello che si trovava. Un bel giorno, in questo caso di concentramento, qui è la parte dolce, diciamo, della storia, venne una signora e chiese se qualcuno, se era qualcuno nel campo di concentramento in grado di fare il pane, di fare il fornaio. Mio padre, ovviamente, sentendo parlare di pane, il fornaio, dice, io in Italia facevo il pane, lo prese, lo accompagnò. E il padre, questo nostro ascoltatore, si improvvisò fornaio. Naturalmente non era il suo mestiere, ma con questo si salvò la vita. Il fornaio a cui fu affidato fu magnanimo, si accorse subito che non sapeva fare il pane, però lo tenne lo stesso, e come la signora citata poco fa dall'ascoltatrice Lucia, è uno dei casi in cui poi la solidarietà comunque passa anche in momenti di ostilità generalizzata. Mario Avagliano, nella rassegna del libro che ha scritto con Marco Palmieri, quali sono i punti in comune rispetto a questa ultima storia? Io, scorrendo il libro e scorrendo l'indice, vedo che in effetti c'erano dei momenti rituali, come sempre in ogni campo di prigionia, in ogni situazione di prigionia, però con la particolarità che questi erano militari, erano soldati. In realtà soldati in quelle condizioni non dovevano stare, doveva essere diverso il loro comportamento, il comportamento dei loro confronti. Beh, come è stato detto, gli italiani non furono classificati come prigionieri di guerra, e si fu inventata questa sigla degli internati militari che praticamente toglieva loro ogni possibilità di usufruire dei servizi della Croce Rossa internazionale, compresi i pacchi, compresa la possibilità di essere assistiti. E nella generazione di italiani che partecipò all'internamento militare poi ci sono stati grandi nomi del dopoguerra, come l'attore Gianrico Tedeschi, che proprio pochi giorni fa ha raccontato la sua esperienza a un quotidiano nazionale, Giovannino Guareschi e Alessandro Natta, che poi diventò segretario del Partito Comunista. E a proposito di rimozione, un dettaglio molto interessante è che Natta scrisse un libro molto bello che si intitola L'altra resistenza, e lo propose alla casa editrice del partito, gli Editori Riuniti, e l'edizione fu rifiutata da parte della casa editrice. Che anni erano? Stiamo parlando del dopoguerra, soltanto poi negli anni 70 fu pubblicato dalle Einaudi, e quindi questo dimostra che per lungo tempo c'è stata una dimenticanza anche voluta nei confronti di questa pagina. Diciamo che c'era un patto scellerato per cui di queste cose non se ne parlava, perché avrebbero, diciamo, in qualche maniera adombrato quello che era il cemento vero della rinascita del paese, su come era rinata l'Italia, su quali fondamenta si era basata l'Italia. Era, diciamo, qualcosa che imbarazzava. Beh, pesava anche l'atmosfera di guerra fredda che c'era in Europa e nel mondo, e quindi la voglia e la volontà da parte del nostro sistema occidentale di preservare anche da queste ulteriori critiche la Germania dell'Ovest, che era l'avamposto dell'Occidente nello scacchiere internazionale, per cui ad esempio sappiamo dell'armadio della vergogna che per tanto tempo nascose stragi e storie che invece erano state compiute dai tedeschi sul territorio, sul nostro territorio e fuori dal nostro territorio, compresi poi tutta la vicenda degli internati militari. Pensate che soltanto adesso una commissione mista, proprio nei mesi scorsi, composta da storici italiani e storici tedeschi, ha redatto una relazione che cerca di proporre una memoria condivisa del passato bellico italo-tedesco, in particolare proprio con riguardo alla vicenda degli internati militari. La ringrazio Marco Avagliano, ci fermiamo per le informazioni del traffico, poi abbiamo una sorpresa. L'idea è la diaspora degli internati italiani va anche molto lontano. Avremo un ascoltatore che ci chiama, cioè che abbiamo chiamato noi, addirittura dal Sudafrica, perché anche lì arriva la nostra storia. Melog, la realtà condivisa. Io racconto la storia di mio zio, di cui porto il nome. Anche lui deportato dopo l'8 settembre, era a distanza a Ragusa, Dubrovnik, ed era un carabiniere. Portato in vari lager dell'Austria vicino a Vienna, Kaiser, Steinbruck, Wegeldorf, Bergassing, eccetera, eccetera. Niente, rimase là fino al 31 marzo del 45, quando arrivarono i russi. E anche lui, durante la prigionia a Fishamend, nel settembre del 44, fu convertito IMI e fu mandato a lavorare in fabbriche, non so, dell'industria pesante, anche lì sottoposto a rischi perché c'erano i bombardamenti alleati nel frattempo, eccetera. Ha raccontato tutto al suo fratello minore, cioè mio padre. Questa è la voce di un altro degli IMI che ci hanno telefonato, a cui abbiamo dedicato varie trasmissioni, però come avevo annunciato adesso si apre un'altra parentesi. Tra le tante vicende poco raccontate, poco chiarite, di cui non c'è mai una storiografia capillarmente approfondita, come in tante altre fasi che riguardano appunto la guerra e il primo dopoguerra, esiste quella che ci può raccontare, rappresenta in questo momento Emilio Coccia al telefono da Pretoria in Sudafrica. Emilio Coccia, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per avermi chiamato. Esattamente cosa accadde tra l'aprile del 41 e il gennaio del 47 a oltre 100.000 soldati italiani che dall'Italia, cioè anzi dal fronte dell'Africa settentrionale e orientale, si trovarono in Sudafrica? Perché in Sudafrica? Beh, in Sudafrica per una serie di motivi. La prima è la distanza dal fronte di guerra. Essendo a 6-7 mila chilometri e facendo il fronte un movimento un po' pendolare tra ovest e est, ci sarebbe stata la possibilità di una liberazione da parte delle truppe dell'asse, dei nostri prigionieri italiani in Egitto, quindi decisero di allontanarli spedendoli al sud, cioè la truppa in Kenya una parte, ma la più gran parte diciamo in Sudafrica e gli ufficiali quasi tutti in India. Secondo motivo per in Sudafrica per poter avere questa gente era l'infrastruttura che era ben sviluppata, grande spazio qui per la produzione agricola anche permetteva il sostentamento di questo grande numero di prigionieri di guerra. Questi furono i due motivi principali. Arrivarono qui a partire dall'aprile del 41, naturalmente i primi 20.000 provenienti da Suez, quindi dall'Egitto, dai campi egiziani, e furono internati nel campo più grande, quello che divenne il campo italiano di prigionia della Seconda Guerra Mondiale, il più grande del mondo, Zondervater. Ecco, voi a Zondervater eravate trattati dagli alleati, in questo caso eravate i prigionieri degli alleati, come prigionieri di guerra o c'era qualcosa di assimilabile agli internati italiani presi dai tedeschi, però venivano trattati come carne da lavoro e basta, avevano perso il rango di militari e anche di ufficiali, gli ufficiali in questo caso? No, qui ci fu una piccola grande differenza. Non furono gli alleati a trattare con i nostri prigionieri di guerra, furono gli africani, che erano sì alleati degli inglesi, però erano di un'altra stirpe, erano ancora memori un pochettino della guerra anglo-boera e delle sofferenze passate da loro stessi in campi di internamento. C'erano andati con la mano pesante gli inglesi con i boeri, devo dire, al tempo. Molto pesante. Si potrebbe chiamare genocidio, perché le stavo dicendo, qui a 500 metri da casa mia c'è un cimitero di prigionieri della guerra anglo-boera del 1902, dove ci sono 1200 salme, e sono tutte donne e bambini tra i 3 giorni e i 3 anni. Quindi, diciamo, gli abitanti della zona di questo campo di internamento, di concentramento, ebbero un atteggiamento diciamo umano nei confronti dei prigionieri italiani rispetto, diciamo, agli altri militari che lì li avevano portati. Quindi nella lontananza, nella distanza, nella difficoltà, comunque furono relativamente fortunati questi militari. Direi di sì, certamente furono più fortunati di coloro che vennero poi internati negli Stati Uniti o in Australia o addirittura poi in Germania, non da qui chiaramente, ma quelli deportati in Germania soffrirono altre pene. In Sudafrica successe che i primi 2 anni i sudafricani non erano molto esperienti nel trattamento di prigionieri di guerra, perché non era mai successo di avere prigionieri, a parte qualcuno durante era pur sempre un campo mondiale di concentramento, non dobbiamo farlo passare per un hotel, per chi ci ascolta e ha pochi elementi di giudizio, era pur sempre un campo di concentramento. Certamente, era un campo di concentramento con reticolati, era diviso in 14 sezioni con un potenziale di 8.000 prigionieri per ogni sezione. E erano separati questi settori, non si poteva cambiare visite, eccetera. Ecco, ma lì da voi, dove si trova lei, esiste una sorta di archivio storico di memoria? Lei stesso ha raccolto qualche testimonianza degli italiani che sono stato in questo campo di concentramento? E poi quanti ne sono rimasti invece in Sudafrica? Sono restati subito, al momento, circa 900. Oltre 3.000 fecero domanda. Anche su richiesta del primo ministro sudafricano, in quanto non voleva che questa manodopera molto specializzata e anche a buon mercato, soprattutto molto generosa, con spirito trattamento, se ne partisse dal Sudafrica, con poi l'idea o l'impossibilità piuttosto di pagarsi il viaggio per nave a ritorno. Però ci fu qualche opposizione da parte sia della Chiesa riformata olandese, sia da parte di qualche gruppo di boeri, perché noi eravamo di stirpe, siamo di stirpe latina, neolatina, quindi non... Il fattore religioso era una discriminante, erano cattolici rispetto agli altri, per questo anche. Certamente, ci fu questa discriminazione, i cattolici non erano ben visti, perché troppo liberali, troppo aperti... anche un pochettino troppo comunisti, dicevano, gli italiani sono comunisti, gli italiani amano i neri, e insomma queste cose. Quello era il vero problema allora, il fatto che in uno Stato che poi si classificò negli anni a venire, decenni a venire, per l'apartheid e la discriminazione razziale, avere degli italiani che tutto sommato avevano avuto le loro brave colonie, però sembravano più tolleranti nei confronti della differenziazione radicale fra bianchi e neri, poteva essere un problema. Ma vedo che comunque abbiamo aggiunto un altro tassello, ancora più sconosciuto, ancora più lontano, a quelli che probabilmente sono ancora tanti da riempire. Ringrazio Emilio Coccia da Pretoria e riprenderemo, chissà, forse anche questo argomento.